troppo difficile sta parte, perché se io sbaglio... Io che mi rivolgo a te quando sono distratto sui miei discorsi sull'universo distrutto dopo l'impatto. Non ti distolgo un attimo lo sguardo e quel sorriso che mi chiama. Quando a terra non rimango nel nirvana, ma viaggio continuamente con il pensiero. Prima sono lontano, poi verso te, così di nuovo al cielo. È da una vita che mi chiedo cosa fare, se stare da solo senza passioni e magari scappare. Ma scendo al mare se sono sereno, lo faccio comunque, sì, mi aiuta di più quando mi oscuro e tremo. Quando mi sento solo e di me stesso tremo, come quando scrivo e dimentico il verso in cui io mi sistemo. C'è da dire che mi rilassa stare con me stesso a pensare che non invecchio, ma è il tempo che passa. Guardare oltre ogni confine trovando la forza, restando con i piedi a terra tra la massa. Ma penso e ripenso a chi invece resta stato, a chi è stato quasi considerato morto, a chi è stato escluso da un mondo così storto, a chi pagherebbe per essere baciato e molto. Ma penso e ripenso a chi invece resta sotto, a chi è stato quasi considerato morto, a chi è stato escluso da un mondo così storto, a chi pagherebbe per essere baciato e morto. Sai che mi sono preso bene nei confronti della vita, anche quando fa la stronza e mi guarda inviperita. Però ho imparato dal mare che più si cerca di restare a galla affannati, più si rischia di affondare. E direi che sono in vena, eppure sono al passo coi tempi di un tempo povero che mi fa pena. Si cena tutti attorno a un tavolo alla sera, nello stesso tempo c'è chi sfama avanzi di galera. Penso e ripenso anche a chi invece resta sotto, a tutti i volti senza un nome, senza voce per cui dare ascolto. Ritorni tu, grazie ancora perché esisti, perché più ti stringo forte a me più sento che resisti. Però c'è da dire che mi rilassa stare con me stesso a pensare che non invecchio, ma è il tempo che passa. Restare con le mie parole colorando su un foglio la vita mia che non è quella della massa. Ma penso e ripenso a chi invece resta stato, a chi è stato quasi considerato morto, a chi è stato escluso da un mondo così storto, a chi pagherebbe per essere baciato e molto. Ma penso e ripenso a chi invece resta stato, a chi è stato quasi considerato morto, a chi è stato escluso da un mondo così storto, a chi pagherebbe per essere baciato e molto.